Please, somebody help me. I'm far, far in the water, help me. Someone help me. I'm far, far in the water. I fall in the water, help me. Clock. Questione di un momento e bam, nessuno si salverà. Non è questione di bim bum bam, è vita questa qua. È il mio fottuto destino con cui convivo ogni giorno, di cui vivo, di cui parlo e di cui scrivo. Non è mica solo una storia inventata, sono nato per fingere di stare bene a questo mondo, perché mi è stata data una malattia mentale. Io sono un pazzo sclerotico e non omosessuale, etero incallito e non un pedofilo, capito? Questa società ci addita tutti uguale, più siamo invidiosi di loro e più li vogliamo distrutti, giusto? E non siamo uno uguale all'altro, anzi uno diverso dall'altro, perché ci vogliono uniti e non ci sono parole per commentare questo stato di degrado sociale. Danno del fallito chi ci è riuscito, e invece al fallito danno il premio di benvenuto. Non è mica giusto, io vi sparo in testa, questa è la mia prima canzone gesta. Bitch, sono come un profumo a cui puoi solo credere. Una droga, la coca di taglio, la spaccio. Siamo censurati dall'opinione pubblica, si ci fanno liberi ma congelati. Siamo soldati menomati, senza le armi, disarmati dai commenti di questi critici falliti, tutti passati dal rap a fare, che ne dici, un cazzo, criticano, non ti passano. Sul Rolling Stone mi danno la pagina, io la sfioro con il cuore, mentre ci metto su questo rap 24 ore. Ci metto su questo rap una 24 ore piena di soldi. Ok, volete farmi andare a male come il ritratto di Dorian Gray, ma non ci sto, ho frizzato il microfono e l'orologio. Sono sotto effetto plagio, plagio tutti questi artisti, ruberò anche le loro riviste, le loro modelle, le loro riviste. Comprerò una Cadillac con una Lamborghini, anche se non valgo un cazzo come gli arrotini. Signore, signore, ecco è arrivato l'arrotino, il più snob, quello che il clero vorrebbe fare fuori. Un gladiatore con l'elmetto, entro in guerra, prendo di petto sta merda, la prendo così tanto nel culo che dovrei sanguinare, ma non mi fermo a reppare, continuo, non mi chino e non mi metto a strisciare, anzi vado avanti a testa alta e quelli come me sono i primi a cadere. Ricordatevi la crocefissione e la bruciare di tutte le streghe. Siamo nati in un secolo di merda dove l'artista è sconvolto e che Dio lo disperda, giusto?